Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un saluto da Maurizio Melis. Concludiamo questa settimana dedicata all'intelligenza artificiale con una puntata sull'etica dei robot. L'automazione esiste da decenni, ma per la prima volta con l'avvento dell'intelligenza artificiale le macchine si trovano nella condizione di interpretare la realtà circostante e anche di prendere decisioni in situazioni impreviste. Come possiamo fare in modo, quando ciò accade, che i robot prendano appunto decisioni eticamente accettabili? Questa è in buona sostanza la questione. Serve una sorta di morale per i robot. Ne parliamo con Nunzia Bonifati, esperta di relazioni uomo-macchina, filosofa, ha scritto anche un libro su questo argomento, e voilà i robot, benvenuta. Grazie, buonasera ai radioascoltatori, a te. Allora, Bonifati, per cominciare proviamo insomma a fare qualche esempio concreto di situazioni in cui un robot può trovarsi davanti a una sorta di dilemma etico. Il caso più emblematico e anche più tragico è l'ambito militare. Prendiamo un'arma robotica, una mitragliatrice, è puntata su un obiettivo da colpire con una estrema urgenza, però sulla traiettoria si trova un gruppo di figure umane di bassa statura, potrebbero essere bambini, oppure potrebbero essere dei fantocci o delle scimmie. Come si deve comportare? Spara? Non spara? È un problema. Un altro caso che potrebbe presentarsi a breve, con le nostre case oramai tutte robotizzate, è un malfunzionamento del sistema robotico, una malinterpretazione del sistema robotico che gestisce una casa. Nell'ipotesi di una domotica un po' più avanzata. Certo, per esempio mi viene in mente, c'è una tempesta violenta, il sistema chiude tutte le porte di accesso alla casa e lascia fuori il nonno, non lo riconosce, nella sua ottica è un ladro, in casa non c'è nessuno perché poverino il nonno era solo ed rimane esposto fuori alle intemperie. Cosa deve fare il sistema robotico? Deve farlo entrare col rischio che sia un ladro. Oppure lo deve lasciare fuori? E poi insomma ci sono i casi noti, quelli di cui si parla spesso, quello dell'auto a guida autonoma, ma ci sono anche dei software, per esempio come i famosi robo advisor, che fanno investimenti finanziari. Anche qui naturalmente si pongono dei problemi di carattere etico. Ecco, quando si parla di roboetica, Bonifati, è impossibile non citare Isaac Asimov e le sue tre leggi della robotica. Sarebbe bellissimo poter dotare i robot di queste tre leggi, ma c'è un problemino. Come? Perché oggi nessun robot è in realtà in grado di comprendere istruzioni come quelle che servono appunto per esprimere le tre leggi della robotica. Allora le chiedo un po' qualche esempio, insomma qualche strada che si sta tentando. Il problema è che la mole enorme di informazioni che un robot deve avere per comportarsi bene, perché le leggi di Asimov vanno anche bene, però in un robot dotato di autonomia si trova davanti a situazioni di estrema variabilità, e quindi per sapere come comportarsi deve conoscere una casistica infinitamente lunga di casi, anche imprevedibili. In molti se ne stanno occupando, devo dire. Per esempio per le auto senza conducente a bordo, che presentano, come sappiamo, tantissimi problemi per via degli imprevisti, come il bambino che attraversa improvvisamente la strada, è molto interessante una ricerca che è stata condotta in Germania all'Università di Osnabrück, all'Istituto di Scienze Cognitive, mi sembra. E hanno studiato un algoritmo che simula la buona condotta alla guida dell'auto. Come hanno fatto? Per il modello i ricercatori si sono basati sul comportamento di un gruppo di automobilisti volontari messi alla guida in situazioni molto critiche, di rischio e di imprevisto. Hanno simulato una giornata, se non sbaglio, di nebbione sostanzialmente, sì, no? Sì, tipica sì, giornata nebbione, tedesca, sì, in cui non uno non vede fino all'ultimo, quindi prende delle decisioni istintive, non ha tempo di pensare. Sì, sono immediate, fatte proprio sulla base dell'istinto, direi. Qui la ragione conta ben poco, però i ricercatori ne hanno fatto creato un algoritmo e si aspettano che l'autorobot, dopo l'apprendimento, agisca secondo una morale umana che è simile a quella dei conducenti umani, ma questo non è detto. Poi bisogna vedere che cosa si insegna alla macchina, agire bene o agire male. Ah certo, lei dice sì, perché certo. Poi in realtà appunto questa diciamo l'utilizzo dei volontari è servito a costruire una sorta di sistema a punti, per cui il robot attribuisce un certo punteggio etico, diciamo così, agli ostacoli per esempio che incontra, per cui è in grado di decidere che cosa fare, però appunto bisogna vedere cosa gli si dice di fare, se di mettere sotto quelli col punteggio etico più alto o quelli col punteggio etico più basso. Questo resta il problema, lei dice. Certo, con il robo advisor è la stessa cosa, certo. Bisogna vedere se sono diciamo attrezzati per aiutare il risparmiatore oppure se sono programmati per fregare. Come per esempio capita che faccia effettivamente anche qualche consulente finanziario disonesto, cioè lei dice non basta costruire un insieme di regole, questo non fa di per sé una coscienza, non fa sì che queste macchine abbiano una coscienza, un senso di colpa nel momento in cui agiscono, comportandosi, diciamo così, male. Senta, però è molto interessante questo esperimento fatto in Germania, perché dà una risposta concreta. Dice, bene, come facciamo a dotare di una morale un'automobile? Per esempio, questo è un modo di farlo. Copiamo degli esseri umani, le reazioni istintive degli esseri umani. E come tutte però le buone idee, anche la ricerca tedesca poi solleva, oltre a rispondere a una domanda, solleva altre domande. Beh, certo, la prima domanda che mi viene in mente è morale il comportamento umano? Certo. No, la morale è un'altra cosa, la morale si basa su tradizioni molto antiche, sul lungo apprendimento, soprattutto presuppone il libero arbitrio e la coscienza, è difficile insegnarlo al robot, perché poi il libero arbitrio ci mette nella condizione di decidere se agire bene o agire male, l'essere umano sceglie di mettere sotto il bambino o non mettere sotto, decide se appunto scegliere tra nel dilemma colpisco il bambino, colpisco l'anziano, sceglie tragicamente di colpire l'anziano per non colpire il bambino, però è difficile insegnare a una macchina una morale, perché alla macchina si possono dare una serie di informazioni, sì, su tutte le regole morali, poi dotare una macchina di una coscienza è veramente una cosa molto lontana dallo stato attuale della ricerca e della conoscenza, è fantascienza lo stato puro, non sappiamo neanche nulla della coscienza noi stessi, non sappiamo perché un essere umano all'ultimo momento si comporti bene o male, appunto i conducenti che si sono prestati alla sperimentazione hanno agito di istinto. Forse è lì, al momento giusto, che si capisce se una persona è buona o cattiva. Ecco perché questo esperimento appunto è interessante. Ma insomma, il punto è che se si vuole dotare di una morale, poi bisogna decidere che morale. Non è che quella umana abbia sempre dato grandi prove, per esempio. Io però, per concludere, Bonifatti, le propongo di ribaltare il ragionamento e di chiederci, anziché di come dotare una macchina di una morale, proviamo a chiederci in quali circostanze in generale le macchine prendono delle buone decisioni, delle decisioni che potremmo definire etiche, e per contro magari gli esseri umani sono quelli che tendono a essere un po' più fallaci o disonesti. Ma sicuramente dove conta molto il ragionamento, mi viene in mente la selezione del personale, dove conta moltissimo l'essere razionali. Una prima selezione potrebbe farla un robot, incrociando tutti i dati del candidato, quelli del curriculum, quelli disponibili sui social network, non so, le informazioni ottenute dall'università o dalle aziende dove il candidato ha lavorato. Questo potrebbe essere buono per una prima selezione, per valutare le competenze e l'affidabilità. disabilità. Poi però dovrebbe intervenire l'operatore umano per capire se il candidato è adatto alla posizione aperta, se è creativo, se è gentile, educato, se sa relazionarsi agli altri. Un altro ambito è sicuramente quello degli investimenti finanziari. Potrebbero essere utilissimi i robo advisor, perché appunto, se ben programmati, non cercano sicuramente di farci fare dei cattivi investimenti. Ecco, diciamo che per esempio lì il consulente finanziario può essere tentato all'ultimo momento, quando prende una decisione, di prendere una decisione rischiosa, perché lui ci può guadagnare di più. Ecco, queste tentazioni un software, se ben programmato, appunto non ce le ha. Sì, purché nessuno lo manipoli per agire certo. L'ambito in cui i robot dovrebbero stare proprio fuori sono quelli dove contano moltissimo le emozioni, i sentimenti, le passioni, le abitudini e il credo religioso, per esempio. E quindi mi viene in mente la cura alla persona, come affidarla a una macchina. Qui l'essere umano, secondo me, è insostituibile. Grazie Nunzia Bonifati. Grazie. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Buon fine settimana.